Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andremo a Torino, il cui aeroporto primo al mondo ha ottenuto la certificazione ISO 50001, una delle ultime nate. Come tutte le certificazioni ISO, la 50001 indica l'esistenza di un sistema di gestione, in questo caso dell'energia, e perciò la sua presenza non autorizza a titolare, come hanno fatto molti giornali, che Torino ha l'aeroporto più green del mondo, ma certamente segnala l'attenzione dello scalo per i consumi energetici e per avere intrapreso una strada, quella della loro riduzione, che questa sì è parte integrante della certificazione. Chiara Albicocco ha parlato di tutto questo con l'energy manager della Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino. Lui si chiama Marco Odisio. Sentiamo. Ovviamente i giornali in maniera corretta vogliono evidenziare alcune cose, in realtà non si tratta dell'aeroporto più green del mondo, non siamo così presuntuosi, in realtà si tratta di un aeroporto, il primo, che ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione dell'energia. Si tratta di una normativa volontaria che consente ad aziende come la nostra di certificare e di fare un intervento significativo sui propri processi di gestione dell'energia, con l'obiettivo di ridurre i consumi e ovviamente anche di avere una diminuzione delle emissioni inquinanti, soprattutto nell'aria, e quindi di ridurre i gas serra. Allora, vediamo un po' di fare, di entrare nel dettaglio su in realtà che cosa certifica, cioè che cosa avete fatto e che cosa state facendo per averla ottenuta. Ecco, entriamo nel dettaglio. Diciamo che il cammino è stato abbastanza lungo, perché prima di ottenere la certificazione abbiamo fatto un lavoro di diagnosi energetica, cioè siamo andati a vederci tutti i nostri processi energivori, dai consumi di energia elettrica fino ai consumi delle benzine o dei carburanti per i mezzi, e attraverso la diagnosi energetica abbiamo individuato innanzitutto i consumi più significativi, cioè quindi gli usi energetici più significativi, e poi una serie di priorità di interventi per ottimizzarli e renderli più efficienti. Ci fa qualche esempio? In aeroporto quali sono i consumi maggiori? Guardi, l'aeroporto, anche se è una società di servizi, e in genere le società di servizi non sono molto energivore, in realtà consuma molta energia, sostanzialmente energia elettrica, sia per gestire gli impianti di condizionamento dell'aerostazione, che è l'edificio principale, sia per gestire l'illuminazione sia dei piazzali che di tutte le infrastrutture, per cui diciamo che la fonte energetica principale è l'energia elettrica, costituisce quasi l'80% dei nostri consumi. E allora, avete visto che in effetti il vostro aeroporto è energivoro, e allora a questo punto avete messo in campo delle soluzioni per poterlo rendere un pochino a impatto inferiore? Certo, perché la normativa richiede di capire esattamente la propria situazione energetica, cioè il risultato della diagnosi, e poi di fare un piano di miglioramento. Ecco, il piano di miglioramento che abbiamo messo in atto per ottenere la certificazione e comunque per proseguire l'attività di efficientamento ha proprio iniziato a lavorare sui sistemi di monitoraggio che già avevamo, ma ampliandoli, e poi su una serie di interventi ritenuti prioritari di efficientamento degli impianti. Andiamo nel dettaglio, ci racconti che cosa in particolare avete fatto? Noi praticamente a cavallo tra il 2012 e il 2013 investiremo circa 300.000 euro per intervenire sul sistema di monitoraggio, cioè sulle macchine che producono l'acqua refrigerata per il condizionamento, e sui sistemi di illuminazione. Adesso non voglio fare un elenco noiosissimo, però abbiamo investito sostituendo lampade tradizionali con lampade LED, abbiamo inserito sistemi di controllo dei gruppi frigo che consentono di farli funzionare al massimo rendimento, date le condizioni di carico, e poi stiamo facendo tutta una serie di interventi di ottimizzazioni, anche a zero investimento, ma proprio sulla gestione dei singoli impianti, cioè ci rendiamo conto se l'orario di funzionamento di una zona o di un ufficio o di un'area della rotazione è sufficiente per gestire la sua operatività. cerchiamo di ottimizzare i parametri di gestione dei singoli edifici. Cioè ci possono essere delle zone, ad esempio in aeroporto, magari la notte, che non vengono utilizzate, quindi a quel punto si abbassano le luci, si spengono i monitor, si spegne il sistema. Questa delle luci abbiamo remotizzato, cioè quindi centralizzato il controllo di tutte le luci della stazione attraverso un sistema di controllo elettronico che consente a un operatore di verificare se le varie zone della stazione dove devono essere spente a un certo orario le luci. Questo per esempio ci sta portando dei benefici. Altra cosa, stiamo potenziando proprio il sistema di monitoraggio degli impianti. Noi abbiamo già una supervisione sia per gli impianti elettrici che per gli impianti di condizionamento e stiamo andando a lavorare sui parametri di settaggio di quel monitoraggio, per cui cercheremo di ottenere dei risultati di efficienza energetica. Noi quest'anno ci eravamo posti un obiettivo di arrivare a giugno del 2013 con un risparmio del 6% sui consumi complessivi. Al momento lo stiamo raggiungendo, quindi questo vuol dire che il sistema ha incominciato a funzionare. E è chiaro che adesso nella prima fase riusciamo a ottenere i risultati più significativi perché lavoriamo sugli impianti che sono più energivori e quindi anche dei piccoli spostamenti dei parametri ci consentono di ottenere dei grandi risultati dal punto di vista della percentuale totale. Certo. Più avanti andremo, dovremo essere sempre più bravi per ottenere quello che la norma impone, cioè il miglioramento continuo. E si può quantificare grosso modo quanto è il risparmio invece economico per una società del vostro calibro? Abbiamo una spesa solo per l'acquisizione di energia elettrica, gas metano e combustibili sia per riscaldamento che per autotrazione superiore ai 3 milioni di euro. Ecco, lei si renda conto, il 7% su 3 milioni di euro che cosa significa? Ecco abbiamo fatto il grandezza è quello. Va bene, insomma, più di 200.000 euro risparmiate. Grazie Odisio, ci tenga informati nei prossimi anni come andiamo. Sono tantissimi in realtà i capitoli di risparmio energetico su cui può lavorare un aeroporto. Per esempio, non si è parlato qui di movimentazione bagagli. E comunque torneremo a parlarvi di aeroporti nel prossimo futuro. Ci domanderemo come sarà prendere l'aereo tra qualche anno. Saremo sempre schiavi della coda al check-in. Continueremo a dover sperare che non ci vengano smarriti i bagagli. Ma per ora ci dobbiamo fermare qui. Appuntamento a lunedì.